Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24. Magazine 24, come sapete, rassegna stampa dei periodici, dei settimanali, dei mensili italiani e stranieri. Insieme con la redazione, con Luca Rinaldi, con Margherita Ina, cerchiamo di individuare gli articoli più interessanti, a volte le notizie anche un po' curiose, per segnalarvele, per consigliarvi magari anche qualche occasione di lettura. Ad esempio su l'Economist nei giorni scorsi è comparso un approfondimento di una notizia che era già circolata nelle settimane scorse e che avevamo infatti segnalato. Si parla di capigliature maschili, di taglio di capelli e della volontà di controllare da parte di alcuni stati, particolarmente autoritari ovviamente, come gli uomini si acconciano i capelli e la barba, perché le due cose spesso vanno insieme. Ad esempio, la storia che viene raccontata dall'Economist parte da Teheran, parte da un signore che si chiama Shahryar, che era, come spiega l'Economist, assolutamente fiero della sua capigliatura in stile Jackson 5, quindi si immagina insomma una capigliatura un po' afro, come si dice, riccioluta e, a quanto si può immaginare, abbastanza estesa, abbastanza ampia. Però la milizia iraniana non era dello stesso parere e infatti lo hanno arrestato. Lo hanno sottoposto a un processo presso un tribunale di tipo religioso e gli hanno imposto di modificare la sua capigliatura. Perché? Perché potrebbe, leggo letteralmente dall'Economist, inquinare la società iraniana con i costumi di del loro peggiore nemico, in qualche modo, cioè con i costumi tipici statunitensi. Ora, questo episodio e la volontà di controllo delle capigliature maschili in Iran era già emerso, era già stato segnalato da qualche altro settimanale. Quello che viene fatto molto bene, devo dire, dall'Economist è una sorta di rassegna di volontà di intervenire proprio sulle capigliature maschili. E infatti si spiega poi nel prosieguo dell'articolo: per lungo tempo, presa dall'ansia di controllare, di tenere sotto controllo le capigliature femminili sotto i veli, ora i regolatori della Repubblica Islamica si sono più concentrati sulle acconciature di tipo invece maschile. E per anni, infatti, le strade di Teheran sono state piene di esperimenti abbastanza esuberanti, appunto, nelle acconciature degli uomini, nelle acconciature che si intende sempre per la parte dei capelli e anche per la parte della barba. E ora però il Ministero della Cultura e della Guida Islamica ha deciso di dare delle indicazioni molto precise per evitare appunto un'invasione culturale di tipo occidentale. Quello che sorprende nel leggere questo articolo dell'Economist è che non è l'Iran l'unico paese in cui c'è questa preoccupazione di controllare i capelli e le barbe per poter in qualche modo controllare anche i costumi in genere. Infatti si riferisce qua agli uomini della Corea del Nord. Sono diciamo sotto controllo della capigliatura già dal 2005, perché il leader Kim Il-jong appunto ha lanciato addirittura una campagna televisiva in cui ha invitato a acconciarsi, a tenere i capelli in accordo con il modello di vita socialista, e quindi ha praticamente invitato a non tenere i capelli lunghi, ma probabilmente ci saranno poi dei dettami anche più precisi. Dell'Iran abbiamo detto, anche nell'Iraq naturalmente, prima dell'intervento militare c'era questo tipo di controllo, e naturalmente in Afghanistan, ad esempio quando i talebani avevano preso il potere in Afghanistan c'erano barbe lussureggianti che fiorivano un po' dappertutto, proprio perché quello era il costume, diciamo, imposto dal gruppo di potere dell'epoca. Allo stesso modo anche in Verozha, in Albania, anni fa aveva vietato invece le barbe, che potevano essere un indice pericoloso di individualismo, addirittura nel 1970. Per quanto riguarda le società occidentali, ed è Poi una delle conclusioni a cui giunge l'articolo: c'è naturalmente molta più tolleranza, diciamo che ognuno si abbiglia i capelli e la barba un po' come vuole, anche se un sociologo britannico, Anthony Sinnott, che viene interpellato appunto dall'Economist, dice: beh, in realtà qui l'unica costante in una società, diciamo, che lascia abbastanza correre sulle acconciature maschili è che solitamente i figli cercano di fare l'opposto di quello che hanno fatto i loro padri, e quindi si fa il riferimento ad esempio all'uso delle capigliature molto lunghe della fine degli anni 60, alla generazione appunto degli hippie, che aveva scelto i capelli lunghi come modo di ribellione, di distinzione dalla cultura dominante. Tuttavia va anche notato che nelle società non controllate, non autoritarie, quello che può sembrare magari in un primo momento anche oltraggioso, anche come un attacco al comune senso del sentire, poi diventa in un certo senso rispettabile in poco tempo. E infatti dice: se voi pensate a quello che è successo con i primi tatuaggi che si sono visti, e poi invece al fatto che i tatuaggi sono diventati una misura, un costume abbastanza comune, molto diffuso, e diciamo non scioccano più nessuno. Quindi dalle barbe ai tatuaggi, chiaramente con volontà di controllo diverse da parte delle autorità, così come riferisce l'Economist. Restiamo in qualche modo all'estero, perché c'è un articolo veramente molto bello su Newsweek di questa settimana che si occupa di un dibattito che sta animando gli Stati Uniti, sta animando la città di New York, e probabilmente lo avete letto. Se non lo avete letto, lo avrete magari sentito dire: si discute se sia possibile o no installare una moschea, lasciare attivare una moschea là dove, in un'area naturalmente ristretta rispetto all'area dove sorgevano le torri gemelle, cioè Ground Zero. Ground Zero, appunto, il nome che è stato dato dopo che queste torri sono crollate al suolo dopo l'attentato. Installare una moschea, consentire che si attivi una moschea in quella zona, è chiaro, suscita tutta una serie di interrogativi, di dibattiti, perché in fondo non possiamo dimenticare che erano dei terroristi che però provenivano da quel tipo di religione, di cultura, quelli che hanno compiuto l'attentato. E d'altra parte sarebbe profondamente sbagliato e ingiusto confondere appunto delle persone che hanno più a che vedere con la violenza piuttosto che con la religione, e quindi vietare la libera espressione invece di una forma religiosa, qual è appunto il consentire la costruzione di una moschea. Cosa sta succedendo a New York? Che c'è un dibattito, come potete immaginare, molto, molto forte. Lisa Miller su Newsweek sceglie di raccontarlo in un modo, devo dire, assolutamente affascinante, perché il lungo articolo in cui lei riferisce di questa polemica, tra l'altro, lo dico tra parentesi, il sindaco della città si è già schierato a favore della costruzione, perché dice è assolutamente in sintonia con i valori americani, con la tolleranza americana, e quindi che non può essere fermata dagli atti di violenza e dal terrorismo. Lisa Miller, dicevo, sceglie di raccontare questa storia attraverso le voci di due donne che vengono proprio messe a confronto, prima a distanze, poi provocando lei proprio un incontro tra le due donne. Cosa hanno di particolare queste due signore? Che entrambe hanno perso un figlio nelle Torri Gemelle, quindi sono due signore, madri di due pompieri caduti proprio nelle Torri Gemelle. Queste due signore si chiamano hanno una storia molto simile, si chiamano l'una Sally Regenhard e l'altra Adele Welty, e la cosa che diciamo anima tutto l'articolo è che l'una è favorevole alla costruzione della moschea e l'altra vi si oppone invece con tutte le sue forze, per motivi appunto entrambi legittimi, entrambi molto umani, molto comprensibili. Così l'articolo diventa, devo dire, effettivamente affascinante da leggere. Io ve ne posso solo riassumere delle parti: è un articolo molto lungo e molto anche documentato, che entra nel dettaglio di questo dibattito sulla tolleranza, sul perdono, sul poter appunto tollerare anche le espressioni religiose non nostre, le espressioni religiose altrui. Ve ne leggo qualche passaggio. C'è naturalmente inizialmente questa descrizione di queste donne, entrambe nate nel Bronx, entrambe educate in scuole cattoliche, si sono sposate, hanno cresciuto i loro figli nei dintorni di Manhattan l'11 settembre del 2001 hanno ognuna perso il loro figlio. Erano due pompieri che sono morti appunto nel crollo delle Torri Gemelle. Il figlio dell'una, cioè della signora Welty, aveva 34 anni e il figlio invece della signora Regenhardt aveva 28 anni. Tra l'altro, di questo secondo pompiere non si sono trovati neppure i resti, per quanto è stato appunto devastato dall'esplosione delle torri. L'incontro tra le due signore naturalmente non è un incontro tranquillo, perché entrambe cercano di portare avanti il loro discorso e le loro ragioni. Dal punto di vista locale, infatti, spiega appunto Lisa Miller nel suo articolo, lo scontro attorno alla moschea è parecchio noioso. I fondatori, cioè i proponenti di questa iniziativa, si sono ispirati a Cordoba, volevano chiamare questo progetto Cordoba House, casa di Cordoba, perché Cordoba nel periodo medievale in Spagna aveva conosciuto una sorta di periodo di tolleranza, di melting pot, di unione appunto tra le religioni, e questo aveva portato anche una crescita culturale notevole. Ci sono naturalmente coloro che si oppongono, coloro che invece si schierano a favore. La signora Welty in particolare anima il movimento, una parte del movimento che si schiera a favore della costruzione della moschea. La signora Regenhardt è diventata invece un testimone della campagna contro la moschea. Cosa dicono i proponenti? I proponenti naturalmente si rendono perfettamente conto delle polemiche che vengono suscitate dal loro progetto, quindi nello stesso articolo dicono: per noi è importante, poiché vogliamo la pace, la vogliamo esattamente dove conta di più, dove importa di più, e quel posto, cioè Ground Zero, è il dove importa di più avere pace, e quindi la moschea come segno di pace. Però le posizioni sono abbastanza divise, si calcola che ci sia una leggera percentuale a favore della moschea, intorno al 52%, ma non così stabile. Il sindaco comunque si è già schierato. La signora Welty, appunto, che si batte perché la moschea venga costruita, ha anche scritto un articolo insieme a una madre musulmana che tra l'altro era madre di un signore, di un tecnico, un infermiere, che è morto anche lui nelle Torri Gemelle, ed era proprio un musulmano, anche lui perito nel disastro delle Torri Gemelle. Dice: noi dobbiamo continuare, dice la signora Welty, come americani all'educazione alla tolleranza, dobbiamo abbandonare il linguaggio che serve solo a instillare paura, e per questa paura poi ci impedisce di rispettare la libertà altrui. Questa è la posizione della Welty, naturalmente molto diversa da quella della signora Regenhardt, che dice: questo per me è un luogo sacro, io non tollero che questo luogo venga utilizzato in questo modo, fate la moschea altrove, non fatela in questo posto. È uno degli argomenti sollevati dalla signora Regenhardt contro la costruzione della moschea. Sulla sacralità o meno di questo luogo naturalmente si discute, e vedremo come poi questa storia si evolverà e quanto poi magari la riprenderanno anche i giornali italiani. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Allora, siamo partiti con argomenti dall'estero, restiamo in qualche modo all'estero, cioè per chi va all'estero, sul mondo. Questa settimana una serie di consigli, un articolo su come mettere il web in valigia per chi proprio non vuole staccarsi dalle connessioni, per chi non può magari staccarsi dalle connessioni. Allora, ci sono anche una serie di consigli, una decina di consigli a cura di Fabrizio Frattini, per individuare, per evitare brutte sorprese. Insomma, prima di partire, naturalmente la prima cosa da fare è controllare il piano tariffario dello smartphone, cioè del telefono che vi consente il collegamento, e se usate un netbook, cioè un computer vero e proprio, installate un software che misuri il tempo effettivo del collegamento a internet e la quantità dei dati che vengono scaricati. Attenzione, è il terzo consiglio, perché il roaming, cioè quella possibilità di connessione che ci consente di collegarci dall'estero, segue segue accordi e convenzioni diversi tra un operatore e l'altro, quindi è meglio informarsi prima quando si va oltre frontiera. Anche se si chiede di usare la struttura, il collegamento wifi, cioè senza fili, offerto dall'albergo o dal posto dove ci si trova in villeggiatura, è bene chiedere molto attentamente qual è il supplemento che viene richiesto, se non ci sono per caso anche delle cose da pagare per la quantità dei dati, altrimenti è meglio valutare se non utilizzare proprio una delle chiavette USB che consentono il collegamento sulla rete radiofonica, sulla rete radiomobile. Naturalmente un quinto consiglio: non seguite, non fatevi influenzare dai modelli televisivi, perché portare un computer in spiaggia non è una buona idea, lo schermo non è abbastanza luminoso per essere utilizzato alla luce, inoltre la sabbia e l'umidità non fanno bene al computer. Può essere utile per avere un telefonino di scorta e naturalmente è sempre consigliabile fare un backup, cioè una copia dei dati importanti prima di partire. Attenzione alla tensione alla rete elettrica: in Italia 220 volt, ad esempio negli Stati Uniti 110 volt, quindi bisogna poi fare in modo, verificare che gli alimentatori e trasformatori del PC possano adeguarsi. E attenzione anche viaggiando, perché è molto alto il rischio dei furti. Negli aeroporti degli Stati Uniti si calcola che ogni settimana si possano rubare o perdere, i due termini potrebbero essere sinonimi, 12.000 computer, 12.000 alla settimana, quindi chi viaggia rischia parecchio. E poi attenzione anche a utilizzare il wifi nei luoghi pubblici, cioè negli aeroporti, nelle stazioni, perché queste connessioni possono consentire anche intrusioni di virus, quindi bisogna avere un software, un programma che eviti le brutte sorprese. Tutto questo sul mondo di questa settimana. Visto che siamo in tema di decaloghi e di consigli, ce n'è un altro, ohimè, un po' più cruento, perché sono i consigli anti-stalking, cioè anti-molestie. Le molestie sono, devo dire, un argomento ricorrente sui settimanali questa settimana, perché ci sono stati dei casi di cronaca particolarmente efferati, in cui degli ex, degli uomini respinti sono diventati violenti, sono arrivati addirittura ad uccidere delle donne, quindi specialmente sui settimanali femminili c'è molta attenzione a questa esplosione di violenza. C'è ad esempio su Vanity Fair una serie di consigli che vengono dati da una psicologa. Attenzione, perché 20 italiani su 100, dice, subiscono stalking, questo è il nome inglese per le molestie ripetute almeno una volta nella vita. Le molestie hanno una durata media di un anno e mezzo, nel 60% dei casi seguono la fine di una relazione. Naturalmente c'è da chiedersi come mai, ecco, una cosa che è stata una storia sentimentale, una storia d'amore, possa trasformarsi in una ossessione. La psicologa interpellata, Anna Baldri, dice: in realtà più che di amore dobbiamo parlare di possesso, cioè un desiderio di controllare la vita dell'altro, e l'altro diventa un oggetto di cui riappropriarsi a ogni costo e nel peggiore dei casi naturalmente anche uccidendo. Che cosa fare? Viene chiesto da Vanity Fair. Quando si comincia a capire che la relazione con l'ex mette ansia e paura, non bisogna rispondere mai a nessuna richiesta di comunicazione, quindi telefonate, email, sms, cercare il più possibile di evitare gli incontri. Fondamentale non accettare mai l'ultimo appuntamento, perché spesso è quello che si rivela poi fatale. Gli stalker non sono stalker, sono appunto questi molestatori, non sono pazzi, anzi spesso sono ottimi manipolatori, agiscono sulla pietà, sui sensi di colpa per raggiungere l'obiettivo, e quindi quando la situazione degenera bisogna naturalmente rivolgersi subito alla polizia o ai carabinieri senza vergognarsi. Questa è la raccomandazione della psicologa, di raccontare la propria situazione, anche se si trattasse di una relazione ad esempio extraconiugale, che quindi magari non si vorrebbe venisse alla luce, però veramente il rischio nei confronti di questo tipo di situazioni è molto elevato. Ci sono poi altri consigli che vengono dati sempre da Anna Baldri, dice: tenete comunque gli sms, le mail, le lettere, i regali, registrate se del caso le telefonate, raccogliete le testimonianze dei conoscenti, cioè tutto quello che può essere poi una prova della molestia. Si può anche tenere un'agenda in cui scrivere quel che accade, così è un modo da raccogliere prove. Tra l'altro, chi è poi riconosciuto colpevole di stalking oggi rischia pene severe, ci sono fino a 4 anni di reclusione, e queste pene vengono aumentate di un terzo quando questo reato viene commesso dall'ex coniuge o dall'ex fidanzato, dall'ex convivente, insomma da chi aveva una relazione stabile con la persona molestata. cambiamo decisamente argomento, restiamo proprio su Vanity Fair. Qualche pagina prima un consiglio invece per uno smartphone, quindi uniamo insomma gli aspetti tecnologici di cui parlavamo prima col mondo, perché io non lo sapevo, ma me lo dice Vanity Fair, l'iPhone ha persino un'applicazione che fa da scaccia zanzare, si chiama Bug Spray, e permette a quel software appunto di emettere un fascio di ultrasuoni che come tali appunto non sono percepibili dall'orecchio umano, ma pare siano letali per gli odiosissimi insetti, quindi si può addirittura usare il proprio iPhone per tenere lontane le zanzare. Questo è un consiglio appunto decisamente di minore portata per molestatrici molto meno pericolose di quelle di cui abbiamo parlato prima. Cambiamo invece completamente argomento per parlare di una, come potremmo definirla, una tendenza del pensiero, una filosofia di cui ho trovato traccia su Focus di questo mese. Allora, voglio parlarvi del singolaritanismo, dalla parola singolarità naturalmente. Che cosa significa? Significa più o meno questo, allora così viene spiegato da Focus. Il progresso è sempre più veloce, ci sono robot e computer che diventeranno presto più potenti del nostro cervello, presto vuol dire nel giro di una decina d'anni secondo i calcoli degli scienziati, quindi saranno capaci di evolversi poi a loro volta a un ritmo sempre più accelerato. Quindi genereranno una singolarità, cioè una esplosione di tecnologia che non avrà più bisogno degli uomini. E appunto ci sono dei teorici di questa singolarità, uno di questi è Ray Kurzweil, che prevede che la singolarità avverrà nel 2045. Cioè l'intelligenza non biologica creata in quell'anno sarà 1 miliardo di volte più potente di tutta l'intelligenza umana attuale, quindi con conseguenze affascinanti e inquietanti al tempo stesso, che peraltro per noi che ancora non ci troviamo in quella situazione sono difficili da immaginare. Non è una visione da film di fantascienza, ma in realtà si basa su delle considerazioni molto molto solide, come poi si apprende leggendo appunto l'articolo di Focus. In questo articolo infatti si spiega che la corrente di pensiero è molto recente, è stata messa a punto negli anni 80 del secolo scorso, quindi parliamo di una trentina d'anni fa, da un matematico che era anche romanziere, che si chiama Werner Winge, però era stata poi anticipata dalle intuizioni di vari futurologi, tra cui appunto un altro matematico, Irving John Good, che fu consulente di Kubrick per il film 2001 Odissea nello spazio. Di cosa si tratta? Si tratta di arrivare a capire quando si potranno fare delle macchine ultra intelligenti, cioè macchine che sorpassino di molto tutte le capacità intellettive di qualsiasi uomo per quanto sia abile. Questa è stata la prima teorizzazione. Poiché progettare una macchina è anch'essa un'attività intellettuale, una macchina ultra intelligente potrebbe a sua volta progettare macchine sempre migliori, e quindi ci sarebbe una esplosione di intelligenza e l'intelligenza dell'uomo sarebbe lasciata fatalmente molto indietro. Tutto questo, ripeto, non è fantascienza, ci stiamo arrivando, perché il primo passo per l'intelligenza artificiale sarà l'emulazione del cervello umano. Entro pochi anni dovremmo disporre di supercomputer che hanno una potenza di calcolo sufficiente. Poi c'è la capacità di arrivare alla ricostruzione delle nostre scansioni cerebrali, che sta aumentando in modo esponenziale, raddoppia ogni 2 anni circa. A metà degli anni 20, questo è il calcolo, avremo modelli efficaci per ricreare su computer tutto il nostro cervello. Parallelamente ci sono gli studi di biologia, gli studi di robotica e la nanotecnologia, tutte scienze che messe insieme potrebbero in qualche modo far rivivere il nostro cervello. Lo stesso Kurzweil dice che sarebbe possibile in futuro diventare in qualche modo immortali, cioè trasferire la nostra mente dal cervello a un supporto non biologico, un supporto meccanico che ha naturalmente prestazioni maggiori, quindi la nostra anima, la nostra coscienza si sposterebbe dal corpo a un personal computer e poi a un altro, così come oggi trasferiamo dei file o trasferiamo delle foto digitali. Se tutto questo vi sembra assolutamente pazzesco, a me lo sembrava anche quando lo leggevo la prima volta, però ripeto, è assolutamente invece corroborato da una serie di dati e di considerazioni che mostrano come la crescita nella capacità di calcolo, nella capacità scientifiche siano sufficienti per arrivarci in un futuro non lontano. Su Focus di questo mese. E allora, con questa segnalazione su un futuro, diciamo anche un po' inquietante, quale quello che ci viene presentato da Focus, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Per domani ci sarà una nuova puntata di Magazine 24, anche se è Ferragosto non ci fermiamo, siamo con voi sempre. Grazie a Pietro Lacorte questa mattina in regia, grazie ancora a Luca Rinaldi e Margherita Aina che mi hanno aiutato nel preparare questo programma. A domani.